Letture di Radio 24. Si chiama Sleeping Concert. È un'esperienza di sonno collettivo dove si passa continuamente dalla veglia al sonno, mentre musicisti e DJ suonano per tutta la notte. La mattina dopo, quello che più stupisce è il risvegliarsi perfettamente riposati e magari ritrovarsi a commentare le ultime ore come se si trattasse di un sogno condiviso. C'è stato un momento in cui un suono continuava ad ascendere, eppure tornava sempre alla frequenza iniziale, ma non sono certo di averlo sentito davvero. Azzardo davanti a un caffè. Il mio compagno di colazione conferma: lo ricordo anche io. Credo sia successo poco prima che il gallo là fuori si mettesse a cantare a tempo. Nulla di strano in realtà. Questo è lo Sleeping Concert, un'esperienza, prima che uno spettacolo. Il concetto è semplice: ci si trova in una stanza e ci si rilassa, tutti insieme per una notte intera, mentre DJ e musicisti si alternano nel fornire una colonna sonora adatta ad accompagnare l'alternarsi di sonno e dormiveglia. Dal punto di vista culturale, il riconoscimento di un legame tra musica e sogno ha origini ancestrali, ma a dare una forma compiuta a questo tipo di concerto è stato a partire dagli anni Ottanta l'americano Robert Rich, le cui sperimentazioni sonore hanno aperto la via, seguita negli anni Novanta, dal duo tedesco Deep Space Network, progetti legati a singoli artisti, che hanno però ben seminato nel terreno dell'underground. Quello che è mancato finora è un format stabile e continuativo, ma anche su questo fronte ci si sta muovendo. A Milano, dopo alcune date di affinamento, si è formato lo Sleep Collective, un gruppo variegato formato da appassionati di elettronica che hanno deciso di unire i rispettivi progetti per diffondere il verbo del suono notturno. Sono loro a spiegarmi come nulla possa essere lasciato al caso. Innanzitutto è importante realizzare un ambiente accogliente. Ai partecipanti viene quindi richiesto di portare quello che serve per essere comodi e non avere freddo, esordisce Luca Isabella, DJ e formatore. Poi c'è l'aspetto musicale. Per modulare i sogni, il suono deve essere a basso volume e avvolgere il pubblico. Oppure si può giocare con il dormiveglia, fornendo stimoli che possano essere utilizzati dal pubblico per cadere in uno stato anche di sogno a occhi aperti o di veglia rilassata, prosegue Massimiliano Viel, musicista e insegnante. Le variabili su cui si lavora sono quelle più difficilmente godibili durante la veglia cosciente: ritmo dilatato, durata prolungata, intensità e frequenze subliminali, variazioni impercettibili, suoni e strutture atipiche o stranianti, conclude il filosofo Matteo Saltamacchia. Preso atto di quelle che sono le premesse di un buon sleeping concert, per capire come si arrivi ai risultati che ho sperimentato sul mio corpo, mi rivolgo al dottor Raffaele Manni, che spiega: la tendenza all'inagerie e al pensiero per libere associazioni è tipica del pre-dormium. In questa fase che precede l'addormentamento, alcune aree del cervello, in particolare quelle dell'attenzione, si disattivano a favore di altre. Così come a livello anatomico si passa dal controllo volontario a quello involontario di numerose funzioni. In più, la musica può funzionare come un esercizio di rilassamento, rendendo più efficace il sonno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Valsecchi, Buonanotte ai suonatori, dal numero di ottobre del mensile Il.